Vangelo di San Luca, capitolo 14. E avvenne che, essendo egli entrato in casa di uno dei principali farisei in giorno di sabato per prender cibo, essi lo stavano osservando. Ed ecco gli stava innanzi un uomo idropico, e Gesù prese a dire ai dottori della legge e ai farisei, «Egli è lecito o no far guarigioni in giorno di sabato?» Ma essi tacquero. Allora egli presolo lo guarì e lo licenziò. Poi disse loro, «Chi di voi, se un figliuolo od un bue cade in un pozzo, non lo trae subito fuori in giorno di sabato?» Ed essi non potevano risponder nulla in contrario. Notando poi come gli invitati sceglievano i primi posti, disse loro questa parabola, «Quando sarai invitato a nozze da qualcuno, non ti mettere a tavola al primo posto, che talora non sia stato invitato da lui qualcuno più riguardevole di te. E chi ha invitato te, e lui non venga a dirti, cedi il posto a questo, e tu debba con tua vergogna cominciare allora ad occupare l'ultimo posto. Ma quando sarai invitato, va a metterti all'ultimo posto, finché quando colui che t'ha invitato verrà ti dica, amico, sali più in su, allora ne avrai onore dinanzi a tutti quelli che saranno teco a tavola, poiché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato». E diceva pure a colui che lo aveva invitato, «Quando fai un desinare o una cena, non chiamare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, che talora anch'essi non ti invitano, e ti sia reso il contraccambio, ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di rendertene il contraccambio, ma il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti». Or, uno dei commensali, udite queste cose, gli disse, «Beato chi mangerà del pane nel regno di Dio». Ma Gesù gli disse, «Un uomo fece una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena mandò il suo servitore a dire agli invitati, «Venite perché tutto è già pronto». E tutti ad una voce cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse, «Ho comprato un campo e ho necessità d'andarlo a vedere, ti prego, abbimi per iscusato». E un altro disse, «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, abbimi per iscusato». E un altro disse, «Ho preso moglie e perciò non posso venire». E il servitore tornato riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa, adiratosi, disse al suo servitore, «Va presto per le piazze e per le vie della città e mena qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Poi il servitore disse, «Signore, se fatto come hai comandato, e ancora c'è posto». E il Signore disse al servitore, «Va fuori per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena. Perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena». Or molte turbe andavano con lui, ed egli rivoltosi disse loro, «Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre e la moglie e i fratelli e le sorelle, e finanche la sua propria vita non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Infatti, chi è fra voi colui che, volendo edificare una torre, non si metta prima a sedere e calcoli la spesa per vedere se ha da poterla finire? Che talora quando ne abbia posto il fondamento e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno prenderanno a beffarsi di lui dicendo, quest'uomo ha cominciato ad edificare e non ha potuto finire. Ovvero, qual è il re che, partendo per muover guerra ad un altro re, non si metta prima a sedere ed esamini se possa con 10.000 uomini affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque ognun di voi che non rinunzi a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale, certo, è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Non serve né per terra né per concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire, oda.